manto degli alberi nel fiore. Io vorrei così tutta la vita godere di un canto sublime d'amore. L'usignolo canterà al vento che ripete t'amo, ti voglio, ti bramo per me, e quel corrisponderà il canto della primavera. Anch'io con te vorrei volare sull'albero fiorito fin lassù, e uniti al fin poter sognare la fossile gerami cinguettando tu per tu. L'usignolo canterà il canto della primavera. Nell'inverno poi noi troveremo un nido d'amore per farci sognare. In quel nido ci scalderemo finché il primo fiore ritorni a sbocciare. L'usignolo canterà al vento che ripete amo, voglio, ti bramo per me, le con corrisponderà il canto della primavera. Anch'io con te vorrei volare sull'albero fiorito di lassù, e uniti al fin poter sognar nascosti nei gerani cinguettando tu per tu. Non lo canterà il canto della primavera.